diciamo in quota molto alta, nonostante la diminuzione del numero dei detenuti. Considerate che nel 2011-2012 sfiorava i 70.000, adesso si è attestato intorno ai 52.000, sempre un numero molto alto e sempre in sovrannumero rispetto alla capienza dei posti. Si segnalano circa 8.000 presenze in più, non in generale, ma istituto penitenziario per istituto penitenziario, cioè il sovraffollamento va misurato carcere per carcere, non si può fare il conto in complessivo perché altrimenti falsa la situazione, come può capire chiunque sappia far di conto, perché se in un carcere per esempio vi sono 50 posti liberi, quelli poi vanno a diminuire la presenza del sovraffollamento. Se in un altro carcere invece ve ne sono 100 in più, non è che quei 100 automaticamente diventano 50, è ovvio, no? Si fanno i trasferimenti, cosa anche abbastanza complessa e per i detenuti e le detenute, cioè loro subiscono questi trasferimenti, che è un aggravio della condanna. Considerate che i trasferimenti sono disagiati tantissimo, sono realizzati la mattina presto, all'alba, sono soprattutto anche una rottura di quel minimo di socialità che ciascuno e ciascuna in carcere si costruisce all'interno appunto delle altre presenze e le altre persone detenute. E dunque non è in quel modo che si risolvono i problemi. Tra l'altro col trasferimento spesso si allontanano i detenuti e le detenute dal proprio luogo di residenza, e quindi la difficoltà per i familiari di fare il colloquio. C'è gente che fa centinaia di chilometri ogni settimana per andare così a fare due chiacchiere, a portare un pacco così a trovare la persona detenuta, e questo non è oltre, ma non lo diciamo più perché questa cosa fa ridere. È chiaro che la legge dice che il detenuto o la detenuta dovrebbero stare all'interno di un raggio di 100 chilometri, non più, della propria residenza. Questo appunto lo dice la legge per favorire i rapporti con la famiglia o comunque con le persone care. La realtà non tiene conto, e la realtà in carcere non tiene mai conto nemmeno di quel poco di così segnali messi nelle leggi o nei regolamenti, che servono più che altro per abbellire una realtà che non è abbellibile come quella del carcere, è tremenda, è da distruggere e basta. Perché per esempio segnalavamo proprio oggi, vedevamo le schede del passato. Ebbene, oggi, cioè il 13 giugno, due giorni fa, nel carcere di Cagliari si è suicidata una donna di 51 anni. Era tossicodipendente sotto osservazione, sarebbe uscita fra un anno, quindi non aveva una grossa pena da scontare. Aveva dato già più volte segno di depressione in qualche modo, quindi era tenuta, dicono ovviamente le direzioni del carcere di Cagliari, era tenuta sotto osservazione. Nonostante ciò si è suicidata esattamente 30 anni fa, nel 1986, leggevamo, ma sicuramente la potremo, negli stessi giorni 30 anni fa a San Vittore un altro detenuto tossicodipendente si è tolta la vita. Beh, in realtà questa, nonostante le tante chiacchiere che si fanno in carcere, tante proposte in parte naufragate, in parte che vanno anche in porto, però poi applicandosi a una realtà devastante come quella del carcere, è chiaro che non sortiscono nessun effetto positivo per i detenuti. Casomai sortiscono effetto di un maggior controllo, quindi di un aggravio della condanna, della pena. Questo è quanto emerge dal carcere. Tra un paio di minuti vedremo ciò che avviene oltre questo nelle prigioni italiane. Turn it up. Allora 15:13. Dunque, partiamo da purtroppo il fatto più brutto che è avvenuto in queste dopo la morte di quella detenuta a Cagliari. Vediamo che cosa succede. Questo del prelievo del DNA è un fatto molto grave, perché per la prima volta avviene in Italia. È un provvedimento un po' generale in tutti i paesi europei. Comunque è avvenuto adesso, è entrato in vigore il 10 giugno scorso, quindi due settimane fa, venerdì 10 giugno è entrato in vigore e francamente non abbiamo visto un grosso battage sui giornali, articoli, discorsi, perché eppure è un fatto molto grave, diciamo, di rottura di quella che è anche, come dire, il rispetto dell'identità anche delle persone detenute, di cui purtroppo spesso si parla a vanvera, ne parlano i papi, ne parlano i presidenti della Repubblica, ne parlano tutti quanti, però poi nel concreto non se ne tiene affatto conto, non solo perché il carcere è quello che è, l'abbiamo più volte detto, lo continuiamo a dire, ma anche perché si aggravia la situazione delle persone detenute, come con questo provvedimento. Il prelievo del DNA ormai è legge. La legge in realtà è molto vecchia, è del 2009, la legge 85 del 2009 era quella che prevedeva il prelievo obbligatorio, anche coattivo, cioè senza la volontà della persona detenuta, del DNA di tutti i detenuti e degli arrestati, anche non ancora condannati, per tutti coloro per reati non colposi. Vengono esclusi soltanto quelli per reati colposi. La cosa grave è che anche gli arrestati, dice la legge, cioè le persone sono semplicemente tratte in arresto e non ancora processate, che possono poi risultare innocenti. La legge dice poi che verranno cancellati questi dati nel caso che la persona poi risulti innocente. Ma voi ci credete che verranno cancellati sul serio? Ovviamente non ci crede nessuno. Nemmeno quel gattino che ha attraversato adesso la strada qui di San Lorenzo. Il problema è che a che serve tutto questo? Serve a costruire una banca dati per tutte le persone, diciamo, che hanno violato la legge. Loro dicono, loro, cioè il governo, i funzionari dello Stato, dicono che ciò serve nell'ottica, è stata attuata questa costruzione della banca dati nazionali in funzione antiterrorista. Ora, voi ditemi che c'entra, il 99,9% delle persone che vanno in carcere, vengono arrestate o anche condannate, che c'entrano col terrorismo? Se uno fa un furto, una rapina, ma che c'entra col terrorismo? Però vabbè, ovviamente serve per tutt'altro. È all'interno questo meccanismo, penso che l'avrete capito tutti e tutte coloro che ci ascoltano, che di quello spostamento graduale ma continuo, permanente, inarrestabile, però loro non l'arrestano, dovremmo pensarci noi, ma ancora di cambiamento del sistema repressivo in ottica preventiva. Così come il controllo penale esterno, di cui più volte abbiamo parlato, poi ci torneremo, perché ormai si sta diffondendo a macchia d'olio, perlomeno in alcune situazioni, per esempio nell'area torinese, è partito dai attivisti e attiviste no TAV, e si sta dilagando dappertutto. La lotta per la casa di Torino è stata, i militanti, gli occupanti delle case dell'area torinese, è stata più volte segnata da questi controlli penali esterni, che sono misure di polizia prevalentemente, non condanne per un reato che hai fatto, e non c'è reato lì ancora, ma c'è soltanto l'attributo del tutto arbitrario di pericolosità sociale. Coloro che vengono segnati come un marchio in fronte di pericolosità sociale, vengono attribuite queste misure di polizia, che sono appunto in genere ruotano intorno alla difficoltà di movimento, all'impedimento di muoversi, o domicilio coatto, oppure l'impossibilità di recarsi in un luogo o di rimanere all'interno di un territorio o di frequentare un altro territorio, e sulle ore di spostamento e sui luoghi di spostamento. Opera su questo, e se ci pensate bene sono proprio i luoghi e il tempo delle 24 ore e i luoghi quelli che impediscono, se ovviamente bloccati, alle persone di continuare la propria attività. Questo era il fine. Dentro questo cambiamento della repressione, nel senso di controllo preventivo, e non soltanto successivo al reato, che appunto è lo spostamento che sta avvenendo molto forte e che vede appunto una minore importanza del carcere e una maggiore importanza di tutte queste misure. Diciamo, dentro questo spostamento quindi del controllo penale preventivo ci sta anche questo provvedimento, il prelievo del DNA per arrestati e detenuti. La cosa è grave comunque, ma ancora più grave potete immaginare per le persone arrestate. E allora la legge è vecchia, appunto, è del 2009, legge 85. Perché c'è stato tutto questo anno per renderla, tutto questo tempo per renderla effettiva, 7 anni? Semplicemente perché tutto questo tempo è servito per stendere i regolamenti, che sono molto complessi, perché non è facile, e anche avere, comunque, come dire, aveva bisogno una legge di questo tipo del parere positivo del garante per la privacy, che ormai tutti dicono privacy, ovviamente sbagliando, perché il Comitato Nazionale per la Biosicurezza e del Consiglio di Stato. Queste tre strutture, istituzioni, devono dare il parere favorevole, perché in effetti, come comprendono chiunque, con questa legge del previo forzato del DNA si mette in discussione appunto l'identità privata delle persone e tutto il resto. Va bene, è una novità molto forte e anche molto brutta, insomma, molto pericolosa. Loro dicono che sarà uno strumento importantissimo per la soluzione dei casi criminali, e in realtà serve prevalentemente in funzione preventiva, non tanto per fare l'inchiesta, come ci raccontano nei film, che poi trovano le tracce del DNA e scoprono chi è l'assassino. Quello gli interessa fino a un certo punto. Quello che gli interessa è colpire, cioè tenere sotto controllo una serie di persone che sono passate in un primo tempo al vaglio delle forze dell'ordine, e quindi anche soltanto arrestate, e poi può darsi anche scarcerate dopo pochi giorni, perché di queste appunto si prende il DNA, andranno la loro identità andrà a far parte di questa banca dati. E ecco, non c'è stato, ne parlano pochissimo i giornali, no? Ovviamente. Ovviamente no, perché è un tema spinoso, capisco, ed è anche difficile, perché bisognerebbe interpellare giuristi importanti per capire dove va come questa legge va a infrangere anche le garanzie costituzionali. Se ne parla molto spesso, quasi sempre a sproposito della Costituzione, in un senso e nell'altro, perché a volte si esalta troppo anche al di là del contenuto, perché ricordiamo che la Costituzione italiana ha come punti fermi la tutela integrale della proprietà privata, quindi l'infrazione della proprietà privata viene resa impossibile. Perfino alcuni comuni, per esempio alcune amministrazioni comunali, che nel passato hanno provato a fare la requisizione degli alloggi sfitti per darli in abitazione in edilizia popolare, si sono visti messi i bastoni tra le ruote dalla tutela molto forte che c'è nella Costituzione italiana della proprietà privata. La casa privata di una ditta o una persona può tenerla sfitta quanto vuole, senza che ciò, come nel resto d'Europa, diventi invece che la volontà dell'amministrazione comunale la prenda in gestione e la possa dare in edilizia popolare per le emergenze abitative. In Italia questo non è tanto facile, perlomeno tutti quelli che ci hanno provato finora hanno fallito, perché appunto c'è questa grossa affermazione della Costituzione, per dire. Quindi la Costituzione viene tirata a volte la cosa più bella del mondo, e non lo è, a volte invece viene tirata dall'altra parte. In realtà, appunto, la Costituzione dice tante cose, spesso l'una è il contrario dell'altra, ed è comprensibile, perché quando venne formulata l'Italia era spaccata in due, ma molto frontalmente, come dire, con uno spartiacque molto profondo, no? Con una differenza profonda di modo di pensare, di cultura, di intendere la società, di intendere il bene pubblico, di intendere la proprietà privata, cioè modi diversi di affrontare, c'era proprio una destra, diciamo, dalla Democrazia Cristiana a destra, e una sinistra che la pensavano in maniera molto diversa di come organizzare la società. Era l'immediato dopoguerra, si trattava di ricostruire una società, e queste due aree però hanno partecipato entrambe alla Costituzione, e quindi si vede che c'è a volte, no, la presenza della, la forte presenza di una impostazione, di una cultura, e anche dell'altra, quindi è, come dire, molto contraddittoria spesso, però era un compromesso tra due forze politiche, quella cosa, quindi non va tirata da una parte o dall'altra. È chiaro che però che alcuni principi generali cozzano contro questa legge. Ora, noi non è che vogliamo fare, appunto, i costituzionalisti, perché non è compito nostro, altri se ne tratteranno, però lo spirito della Costituzione, che garantisce l'identità della persona, e che tra l'altro afferma, e questo lo sappiamo tutti perché ogni avvocato durante la difesa tira fuori questo argomento, che una persona va considerata innocente fino alla condanna definitiva, cioè fino ai tre gradi di giudizio, primo grado, appello e Cassazione, e invece qui questa legge dice che il DNA viene prelevato forzosamente anche alle persone semplicemente arrestate, che poi possono risultare innocenti, e i dati dicono che circa la metà, più o meno la metà, delle persone arrestate, poi passando sotto il giudizio del processo, vengono dichiarate innocenti, eppure anche quelle verranno schedate. Come dire, loro dicono che verranno cancellati i profili genetici della banca date nel caso di assoluzione, però appunto, oppure trascorsi 30 anni oppure 40 anni. Dopo 30 anni o dopo 40 anni, quando la persona, siccome non viviamo 200-300 anni, in genere dopo 40 anni dalla commissione del reato è difficile che stia ancora su questa terra, comunque dopo 40 anni o 30 o 40, secondo se è un reato singolo o recidivo, diventano 40, oppure se la persona arrestata a cui è stato tolto preso il DNA risulta assolta, viene assolta, questi dati verranno cancellati. Il problema è che però, come sa chiunque ha a che fare con un computer, siccome vengono messi in una banca dati, quindi informatica, è chiaro che sì, si possono pure togliere, però poi alla fine rimangono lì questi dati. È un caso semplice che tutti sappiamo, è che chiunque, come dice appunto la legge, non solo la Costituzione ma anche la legge, quando una persona è stata condannata a un tot d'anni, mettiamo a 3 anni, a 2 anni, a 4 anni, a 10 anni, quello che sia, scontata la pena e conclusa, diciamo, la espiazione del reato, torna a essere una persona libera e quindi a godere di tutti i diritti, e viene cancellata dall'archivio delle procure, e quello è vero, viene cancellata, infatti non ci stai più, mentre invece non viene cancellata nell'archivio della polizia. È una contraddizione, sì, è una contraddizione anche questa. Uno dovrebbe dire, allora, che dice la polizia anticostituzionale? In realtà sì, però la polizia tiene questa banca dati non del DNA, questa la teneva già prima, questa delle persone arrestate o condannate, e in virtù del testo di pubblica sicurezza che risale al 1931, quindi prima della Costituzione, in un regime abbastanza diverso, perlomeno formalmente, come leggi e come Costituzione, da quello nato dalla Costituzione, quindi nel regime fascista. Per cui, come vedete, le contraddizioni sono molte. Insomma, quindi io adesso non c'è mobilitazione, non c'è dibattito, siamo un po' in un deserto in questa situazione, perché è difficile trovare articoli di questo genere sui giornali, non se ne parla in giro, si parla di tutt'altro, ed è difficile pensare a una mobilitazione contro questa legge, perché appunto non si vedono, non se ne parla. Immagino che il 99% delle persone nemmeno lo sanno, cioè nemmeno se ne sono accorte, nemmeno gli è passata in testa questo coso. Vabbè, quindi questa cosa qui è ora vedremo, sentiremo quello che succede nelle carceri, perché voi che state in carcere, che già avete tutti i problemi di questo mondo, ne arriverà un altro, vi verrà prelevata il DNA. Thank you.

Allora, passiamo a un altro argomento. Questo quindi, appunto, ne vedremo gli sviluppi. Può darsi che ci siano situazioni di qualcosa si mette in moto. Vedremo quello del DNA. E intanto c'è l'IPM, sapete che è l'Istituto per Minori. Questo è l'IPM del Pratello, che è quello di Bologna, cioè l'Istituto per Minori di Bologna, dove ci stanno le persone che hanno trasgredito la legge al di sotto dei 18 anni e che sono appunto di sotto i 18 anni e vengono messi negli istituti per minori. Quando compiono 18 anni vengono trasferiti al carcere normale. E al Pratello è successo, qui leggiamo dalla Repubblica di qualche giorno fa, che c'è stata una mobilitazione un po' pesante. Allora, 12 giovani detenuti sono stati denunciati per una protesta che il 31 maggio, quindi è un po' vecchia, però è venuta adesso sui giornali perché adesso sono stati denunciati. Evidentemente prima hanno fatto le indagini, l'inchiesta, eccetera. Questi ragazzi, intanto vediamo bene la percentuale tra ragazzi italiani e stranieri, perché di questi 12 denunciati sono 11 stranieri e un italiano. Non è strano, perché questo stesso rapporto è nella presenza, cioè nell'istituto per minori la gran parte delle presenze sono ragazzi stranieri. Perché questo? Perché appunto le leggi italiane riguardo ai reati dei minori sono ancora abbastanza garantiste. Dico questo non secondo il mio pensiero, che secondo me non dovrebbe proprio esistere il carcere minori, ma in rapporto agli altri paesi europei. Per esempio in Inghilterra addirittura hanno messo la carcerazione a 13 anni, all'età di 13 anni si può andare in carcere, in Francia mi pare lo stesso, o comunque 14, cioè si è abbassato notevolmente in gran parte dei paesi europei il livello di carcerabilità delle persone, dei minori insomma, no? In Italia che c'è in Italia in più? Il fatto di dire che perlomeno fino a 16 anni si fa di tutto per mandare questi ragazzi che hanno fatto piccoli reati, che immaginate se sono in genere reati contro il patrimonio, piccolo spaccio di sostanze stupefacenti, cose di questo tipo, e sono si cerca una situazione attenuata di primo impatto. Ma addirittura al primo reato viene utilizzata la messa in prova. Cioè si rimette fuori il ragazzo denunciato, si rimette fuori in libertà con dei controlli da parte degli assistenti sociali, questo è un po' il meccanismo, oppure si mandano delle case d'accoglienza, che una sorta di arresti domiciliari con possibilità di muoversi, andare a scuola o altro, però stando in situazioni dove anche lì non ci sono guardie ma assistenti sociali che ti controllano, questa è un po' la situazione. Perché invece gli stranieri non hanno questa possibilità, perché per avere la situazione diversa dal carcere per i minori c'è bisogno di una copertura familiare, nel senso che i genitori, i familiari eccetera devono garantire che questo ragazzo o ragazza segua le prescrizioni della corte, e quindi i ragazzi non italiani vanno a finire invece nel carcere per minori. Il rapporto è circa 8-1, 9-1, cioè ci sono quasi tutti ormai ragazzi non italiani nel carcere per minori. Che hanno fatto questi ragazzi al Pratello, all'istituto per minori del Pratello a Bologna? Hanno dato fuoco a dei materassi, c'era tensione, qui i giornali non ci spiegano esattamente bene perché, hanno incendiato 4 materassi, ovviamente i materassi del carcere sono di spugna, di quella gomma spugnosa, e quindi fanno subito una puzza, una densa, molto densa nuvola di fumo, e anche molto puzzolente insomma, e quindi chiaramente fa scattare subito allarme, vengono eccetera eccetera. Era una protesta Niente, volevo richiamare l'attenzione perché non sono d'accordo su niente di come si svolge la giornata detentiva in carcere, nel carcere minorile, le possibilità, diciamo, di attività di gioco, sportive, di studio non sono confacenti a ciò che loro avevano già chiesto, questi ragazzi avevano già chiesto alla direzione, e quindi per richiamare l'attenzione hanno fatto questa attività, questa cosa. Vabbè, questo è un discorso. Il problema ritorna il problema del sovraffollamento. Lo dicevamo all'inizio, il problema del sovraffollamento, cioè la presenza del numero complessivo per tutte le carceri italiane, che sono circa 200, no, gli istituti penitenziari italiani, la presenza totale si è abbassata da 68-69 mila, ai tempi che l'Italia prese la sanzione della Corte Europea sono abbassati a 52-53 mila. Questo è il livello che, rispetto ai 49 mila posti, non è che c'è molto sopra più. Però, siccome dicevo prima, siccome sul piano nazionale sembra vabbè ci siamo quasi, ma non è vero, perché appunto ci sono invece istituti penitenziari sottoutilizzati, dove addirittura ci stanno meno persone di quelle possibili, e altri invece che hanno un sovraffollamento notevole, perché non viene, è ovvio, non è che si può ripartire, non è facile ripartire, poi è complesso, poi appunto le traduzioni sono, oltre che un costo per l'amministrazione penitenziaria, sono anche un grosso disagio per i detenuti. Il problema è che il problema grave è che questo fatto, che viene denunciato, è stato denunciato anche da alcuni sindacati di polizia, perché qualche giorno fa c'è stato un anniversario della fondazione del corpo delle guardie carcerarie, no, della polizia penitenziaria, e quindi c'è andato anche il presidente della Repubblica Mattarella, c'erano tutti, e un sindaco non c'è andato motivando questo discorso. Dice sì, il ministero se la cava dicendo più o meno ormai abbiamo superato il sovraffollamento, perché il numero complessivo quasi si avvicina a quello reale dei posti disponibili, però appunto c'è questa differenza tra carcere e carcere, in alcune realtà è molto forte il sovraffollamento. E quindi loro dicono che anche loro lavorano male le guardie quando c'è un grosso sovraffollamento, e quindi che si crea tensione, eccetera eccetera. Ora il problema è che tutto questo, come fu a suo tempo quando appunto il sovraffollamento ha raggiunto livelli spaventosi, e qualcuno disse, come diceva, a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca la verità, che quel sovraffollamento era stato spinto al massimo facendo leggi che mandavano in galera tutti, quello sulla recidiva, cioè tutto, perché il governo di allora, quello dei primi anni del 2000, quando cominciò a crescere in maniera esponenziale la presenza in carcere, grosso numero di presenze in carcere rispetto alla scarsità dei posti, quindi il sovraffollamento era arrivato al 190%, cioè quasi il doppio di quelli con posti, quindi la gente dormiva nei corridoi, dappertutto, cose inenarrabili, e poi bagni insufficienti, potete immaginare che cosa è in un posto chiuso. Quel coso gli fece scattare una volta in una riunione del Parlamento, erano i primi anni del 2000, un ministro della giustizia andò lì, espose i dati dicendo è un disastro, e il Parlamento votò l'emergenza carceri, cioè le carceri stanno in emergenza perché c'è questo sovraffollamento che è sovrabbondante, molto forte. Che succede allora? Stabilita l'emergenza carceri, questa parola è una parola chiave, è un po' come la parola emergenza in queste cosiddette democrazie mediatiche, in cui conta molto ciò che poi raccontano i giornali, ma soprattutto la televisione eccetera, la parola emergenza fa scattare un sacco di provvedimenti a catena, a cascata, allora quando c'è l'emergenza carceri bisogna costruire nuove carceri, così disse il governo di allora, perché i detenuti sono tanti, le carceri sono poche, facciamo, e siccome c'è l'emergenza, gli appalti per dare in affidamento a ditte private la costruzione di nuove carceri saltavano tutta una serie di schemi di controllo. Quindi come dire, immaginate da voi che succedeva, no? Un ministro, tutto lo staff davano agli amici loro, degli amici. Allora al governo c'erano dei palazzinari e quindi il gioco era fatto e cominciarono a fare tantissimi progetti per nuove carceri che sarebbero state date in costruzione a queste ditte, quelle famose, no? Gli amici degli amici. E considerate che un carcere costa molto, perché appunto non è una casa di civile abitazione, ma c'è i muri doppi, i sistemi d'allarme, cioè molto costoso, e quindi avevano messo in campo una grossa, un grosso business puntando sulla parola emergenza carcere. Questo era uno dei motivi per cui il sovraffollamento ha raggiunto quei livelli parossistici in Italia, 70.000 presenze, mai ha raggiunto il record del secolo, anzi da sempre, e era dettato anche, non solo anche da questo, ma anche da tutti i fatti di dire se mettiamo la gente in galera i cittadini tranquilli, i cittadini semplici si sentono più tranquilli, più protetti e quindi ci danno il voto, cosa che tra l'altro successe. Per sentirvi tranquilli sappiate che c'è un governo che butta tutti in galera e poi butta la chiave. Questi sono i programmi elettorali, perché la gente crede che appunto che se le carceri sono affollate ci stanno meno reati. Ovviamente non è così, il reato è dettato da situazioni sociali, socio-economiche prevalentemente. Vabbè, comunque adesso con questo meccanismo qui, che è giusto il fatto di dire non sono soltanto 2.000 quelli in più, ma sono addirittura, hanno contati 8.300 circa, perché appunto facendo il calcolo carcere per carcere viene fuori che ve ne stanno tanti. Molti carceri sono terribilmente sovraffollati, per esempio Secondigliano ha 1.373 persone dentro a fronte di 1.021 posti, quindi 350 in più, e non è uno scherzo, e così via, i numeri sono questi, no? Ecco, questo fatto ha fatto scattare una costruzione non di nuovi carceri ma di nuovi padiglioni, e anche qui comunque scatta il business. See what I see, no, I hey, baby, don't. Allora, un altro problema che questo sembra aver suscitato un po' di dibattito sempre nella stampa, purtroppo siamo dipendenti dai media, ma non è da oggi, però come avete visto, se un problema, un fatto, anche una legge non viene non raccontata dai giornali, in televisione, e non se ne dibatte, la gente pensa che non ci sia, non sa che ci sia, come quella del DNA. Vabbè, questa invece un po' se ne parla, però vedremo che viene. C'è stata una proposta da alcuni giuristi di togliere l'appello. Voi sapete che anche questo probabilmente necessita di una riforma, anche questa costituzionale, comunque, oppure comunque leggi complesse. E il problema è che, sapete, un qualunque reato penale che passa sotto il codice penale, sia il primo grado, il processo di primo grado, oltre la fase, diciamo, istruttoria, il primo grado, l'appello e la Cassazione. Al termine di questi tre, se ovviamente uno li percorre, alla fine di questi una persona è condannata definitivamente, diventa un definitivo ed è che comincia ad espiare la pena. Non per tutte le persone che hanno commesso un reato è prevista la carcerazione preventiva, cioè prima della condanna. La legge fatta 2 anni fa ha ridotto molto la possibilità di mettere la persona in carcere, in custodia cautelare, come si dice, prima della condanna. È molto difficile metterle prima della condanna prima del processo di primo grado. Eppure, dicono alcuni osservatori di questi dati, quindi per esempio anche le camere penali, cioè l'associazione degli avvocati, dicono che invece, nonostante che ci sia una legge, pochi procuratori ne tengono conto, nel senso che la legge era stata molto drastica, cioè diceva, siccome anche qui uno dei punti, il secondo punto della condanna della Corte Europea allo Stato italiano per come gestiva le carceri, il primo era sul sovraffollamento, che quindi significava trattare come bestie i detenuti, il secondo era sulla grossa presenza nelle carceri italiane di persone non ancora condannate, era il 40-42%, si aggirava, quando la media europea era sul 15%, quindi anche questo grosso uno scandalo, quando la Corte Europea sanziona uno Stato, ne parlano sì i giornali, ma non solo i giornaletti italiani da quattro soldi, i giornali internazionali, quelli letti, quindi la cosa diventò, ecco qui l'Italia, molti giornali dissero l'Italia è un paese del terzo mondo sul piano della giustizia. Ora lasciamo stare i problemi di primo, secondo e terzo mondo, però sicuramente è fatta una figuraccia, come si dice. 42% di persone non ancora condannate nelle carceri, quasi la metà, insomma, fa un po' schifo, è un po' da paese dittatoriale, ha molto poco a che vedere con uno Stato di diritto, come si, no, amano tanto definirsi i nostri governanti, politici, statalisti, eccetera. E va bene, e va male, anzi, va molto male. Perché? Quindi dovettero fare di fretta e furia quella legge che riduceva le possibilità della custodia cautelare, cioè la messa di mettere le persone in carcere prima della condanna. C'erano solo due eccezioni per cui potevano applicare la custodia cautelare: uno è il tentativo di fuga e l'altro di reiterazione del reato. Per molti reati non si dà reiterazione, perché appunto ci vuole una situazione particolare per poter reiterare il reato, e poi quella di fuga, appunto, cioè anche questa, e però non solo messa così, perché il magistrato poteva dire, secondo me questo tenterà, se lo metto fuori tenterà di scappare, oppure inquinerà le prove, o reitererà il reato, ma questa, se diceva queste cose, doveva corredarle con un lavoro, diciamo, di indagine, quindi utilizzando anche le forze dell'ordine per dimostrare che era vero, cioè che era vero il fatto, che era abbastanza provato il fatto che se io metto fuori questa persona, questa o reitera il reato o inquina le prove o fugge. E quindi era anche un lavoro oneroso, eccetera. Vabbè, pare che questa legge, secondo alcuni, non viene rispettata a dovere, quindi la presenza delle persone non condannate in carcere in Italia è ancora molto alta, non sono più 42%, però sempre molto molto alta, più alta della media europea. E allora invece di rivedere quella legge, farla ancora più stretta, più forte, oppure fare circolari come spesso fa il ministero o altre cose di questo tipo, altre diavolerie per imporre ai procuratori di non usare così a iosa la custodia cautelare, qualcuno ha pensato di togliamo l'appello. Perché tre gradi di giudizio? Basta uno, chi se ne frega, buttiamo in carcere e finisce là. E indovinate chi è stato un promotore di questo, insieme a tanti altri? Un certo Giancarlo Caselli, che molti conoscono per le sue così attività molto legate alla... ama il carcere per gli altri, ovviamente, in maniera parossistica. Questo signor Giancarlo Caselli, che è stato procuratore capo di Torino, adesso è in pensione, però come sapete, infatti lo vediamo che la Procura di Torino ha preso un po' i suoi insegnamenti, è una di quelle più feroci, sia nel somministrare a custodia cautelare, sia anche tutti quegli altri controlli esterni che abbiamo visto nell'area di Torino, diffusissimi, si stanno diffondendo a macchia d'olio. Bene, male. Il problema è che togliere, cioè i tre gradi di giudizio è una cosa molto vecchia, parte dal 1500-1600, perché prima non c'era ovviamente negli Stati Uniti, quando nascono i primi, prima ancora delle rivoluzioni borghesi, no? Che datano in Inghilterra la seconda metà del 600, in Francia alla fine del 700 e poi via via in tutto il resto d'Europa, anche prima delle rivoluzioni borghesi, diciamo democratico-borghesi, in realtà i sistemi giuridici si stavano conformando alla necessità di avere un confronto, cioè un primo grado e un controllo sul primo grado, quindi l'appello nasce, come dire, ma se hanno sbagliato o comunque sottovalutato o sopravvalutato delle circostanze i giudici, facciamo una seconda prova, e l'appello nasce per quello. Difatti i dati anche qui dicono che la gran parte dei processi, delle sentenze del primo grado vengono ritoccate dal secondo, dall'appello. La Cassazione è diverso, non è più di merito, è di giurisprudenza, se è stata applicata la giurisprudenza effettiva, quindi di più formale, non sostanziale, ma il primo e il secondo grado si occupano delle stesse cose. Quindi e spesso la gran parte dei processi vengono riformati dall'appello, quindi vuol dire che funziona questo secondo fatto. Perché toglio? Toglierò perché hanno detto i promotori dell'abolizione dell'appello, e perché così si rende più veloce la giustizia, che è un pachiderma, ci si mette troppo tempo, siccome qualcuno aveva detto vabbè, aumentiamo i tribunali, le corti d'assise, aumentiamo i magistrati, no? Se sono oberati di lavoro basta aumentarli. Il governo ha detto non possiamo, perché ovviamente i soldi non ci stanno, servono ad altre cose. E quindi qualcuno ha detto, visto che non si possono assumere altri magistrati, togliamo l'appello. Qualcuno cattivo, non so, ha detto, ma guardate che questa cosa l'aveva tentata pure il regime fascista, di togliere il secondo grado l'appello, perché voleva fare un processo molto veloce, butta in carcere, cioè, in realtà buttava in carcere molto, ma allora c'era molto l'arresto prima del preventivo, insomma si buttava in carcere la gente, ma nemmeno si faceva il processo, cioè gli arresti amministrativi, come si chiamarono, ma non riuscì a togliere l'appello, perché anche allora c'erano dei giudici, sì, che saranno stati pure fascisti, alcuni sì, alcuni venivano dal passato, però non se la sentivano di fare una cosa diversa dal resto d'Europa, e quindi togliere l'appello anche rispetto al loro uso. E qui oggi pare che qualcuno, appunto Giancarlo Caselli in testa, vuole togliere l'appello, quindi fare qualcosa che qualcuno dice guardate che non c'è riuscito nemmeno il fascismo di Mussolini a togliere l'appello. Vediamo se questa società cosiddetta democratica ci riuscirà. Oh, per finire, siamo in chiusura, velocissimamente, ecco fatto, c'è su questo fatto della cannabis libera, come si dice, cioè regolamentarne il consumo, la vendita eccetera, la produzione, c'è un dibattito, ci stanno già diverse proposte di legge, ci dicono, vari giornali ci dicono che Il 27 sarà in aula, il primo di questi proposte di legge, e sulla legalizzazione delle droghe leggere, in particolare marijuana, e pare che i partiti sono spaccati, quindi sarà una votazione trasversale che attraverserà il corpo dei partiti. Lo vedremo comunque bene anche nella prossima trasmissione. Adesso, prima della sigla di chiusura, siccome siamo in chiusura, mancano 10 secondi adesso, sono le 15:59, adesso sono già passate i secondi e 55. Bene, vi facciamo sentire perché l'appuntamento per questa settimana, sapete, c'è la festa della radio al Centro Sociale Exnia, e vi facciamo sentire il programma dello spot e poi a seguire la sigla di chiusura. Noi ci sentiamo mercoledì prossimo, non ci rimane che augurare a tutti e tutte buona libertà. Che possiate uscire al più presto da quell'inferno.